Vanni al diavolo in malora, più ne voglio di un fuoco di garrini. Buonanotte, sì signora, ho finito di impazzir. Vanni al diavolo, buonanotte, in malora, più ne voglio di un fuoco di garrini. Buonanotte, sì signora, vanni al diavolo, più ne voglio di garrini. Ma quel signore, un amico.

sul tuo thank you. vedo, non so comprendere da te. Oh mio che fulmine, non so rispondere, amore aiutami, per rispondere. Confusi e stupidi, incerti, vedo, non so comprendere da te. Incerti vedo, non so comprendere da te. Oddio che fulmine, non so rispondere, amore aiutami per carità. Voci e stupidi, incerti vedo, non so comprendere da te. Oddio che fulmine, non so rispondere. Thank you.

basti indosso, ma la fetta mia di fede, quant'era meglio che tu andassi in fondo al mare. Grazie, quanto onore, alla fine del cuore, con il mare, con il mare, con il mare, con il mare, dunque a momenti il signor Mustafa mi favorisce a prendere il caffè. Quanto è grazioso il signor Mustafa, e il schiavo, chi è di là? Che vuol signora? Asinaccio, due volte mi fai chiamar. Caffè? Per quanti? Per me, per tre. Se ho ben inteso, con voi da sola sola vuol prenderlo il bene. Da sola sola, e sua madre le fate le ambasciate. Signora! Andate, andate, arrossisco per voi. Ma che cosa ho da fare? Io vi insegnerò, va in bocca al lupo, chi pecora si fa. Sono le mogli fra noi, quelle che formano i mariti. Or su, fate il mio voto, in questa stanza ritirate. E poi vedrete come Mustafa farò drizzar la testa. Che spirito ho costei, qual donna è questa? Voi restate, a momenti e sarà qui. Finiamo di avvicinarci, che li venga. Oh, se viene, or tutta l'arte a me adoprar corviene. Thank you. guarda, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, tu non sei, no, non sei, no, non sei, mi suona ancora. Guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, tu non sei, no, non sei, no, non sei, mi suona ancora. Chi suona ancora, chi suona ancora, chi suona ancora. Ah, bella, bella, mi chiama una donna come lei, come lei, non ti dico, non ti dico, non ti dico. Senza di lei, andate e conducetela. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Presento di mia mano, Ser Taddeo, Caimacane. Ti presento, Ser Taddeo, Caimacane. Faccio prendi quanta stima di te pace musa fa. Faccio prendi quanta stima. Osservare quel vestito, parla cara. attente. Osservate, osservate, a piacergli, adesso a bene. E la dice a chi osa, a piacergli adesso a te. Ci siamo. Oh. E chi? Creta, Creta. E chi? E chi? Falsallo! Maledetto quel balordo! Non intende ancor vista. Questa rudine che scoppia non mi muovo via di qua. Maledetto quel balordo, non intende ancor vista. Due sopra. E c'è! Che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che scoppia, che Nelle vene un poco più non mi so frenar, nelle vene un poco più non mi so frenar, no, non mi so frenar, no, non mi so frenar. Se tu freno, se tu freno, Thank you.

ridere sua mentia sto per schiattar e tinta ridere sto per schiattar frate i carissimi provo il sognetto di rintrarmi rito del vostro cielo sarà una grazia particolar Oh!